non so questa cosa, tutta la vittoria quando avevo il Duas e quando cioè il Duas e il 10-50 ad alternavo con l'S9, con l'S9 e Colt. Al strumento il Duas dava 120 watt con 2 watt di porta potenza, dava 110, 120, 150, roba così. In modulazione, quando modulavo, dava picchi a 300, ne dava picchi a 300 quel Diaz, assorbiva 50 ampere. Il DC250 in senza arcia, sempre con lo stesso pilotaggio, 100 watt, davo la portante in picchi, davo il modulato in picchi, 230, 250, 200, a volte sono arrivato anche a fare 260 watt, ma non di più. Quel DS era assurdo, mi era partito una molla, diciamo una molla per metterlo in frequenza, e non ero riuscito a metterla fuori. Sì, magari portandolo a un esperto te l'avrebbe sistemato. Sì, me lo ricordo, Gavì, me lo ricordo, ma non era tanto lineare quanto l'apparecchio che era modificato e spingeva, come tu modulavi ti dava picchi allucinanti. Allora, io da balai, parla bugia, no, il giorno non era balai, il giorno ero all'uscita di Porto Torres, e stavo parlando con Claudio Sparviero a Sassari, ed ero con Diaz, e mi chiama Gianni Falcazzurro di Porto Torres, che fa il camionista. Lo sai dove mi stava ascoltando già? Lo sai dove mi sentiva lui parlando di lui dalla città di Porto Torres? Mi ascoltava vicino a Chiremule. Vabbè. No, ma anche io quando uscivo da Porto Torres a Claudio arrivavo 9, da quando partivo, sì, da quando arrivavo a Sassari aumentava sempre di più. Poi passavo lì, sotto i vidriati, nelle curve di Monterrazzo, arrivavo 9-10. Sempre così arrivavo, da 9 non scendeva. Non so, se gli apparecchi vanno bene ti sentono fuori anche. Ma tu lo sai, io se tu ti ricordi avevo la mini, la mini turbo, non avevo l'antenna, non era base magnetica, era un impianto fatto bene a carrozzeria, e avevo la mini turbo che la mettevo quando dovevo attaccare la radio, perché nel lato avevo il pignone dietro dell'annullatore, e poi davanti avevo questa cosa che quando avevo l'esigenza mettevo la lenna, però la mini turbo, e tirava come una dannata con l'antenna tirava tutto, noi ma non so da cosa, per l'antenna tira come una dannata, io con l'antenna l'ho presa, l'ho calibrata, mi dava 1-1 col Diaz attaccato già, qua credimi, era una cosa viziata, l'avevo trovato una tarattiva bella, io a tarare l'antenna, ero andato vicino a Portoferro, in quella collinata dove c'è la torre di lì, mi sono messo lì, ero tutto campo aperto, l'unica cosa che c'è lì sono quelle insenature, ma non crea nessun tipo di problema. Guarda, ero andato lì, avevo tarata da solo, tranquillo, l'antenna messa più dritta possibile, ed era una bomba. La Lenny mi turbo, nera, non lo ricordo ancora. Poi c'avevo la 2001 e la 3000 Turbo Star, ma quello non l'avevo mai usato perché era troppo pesante. Io la mini turbo sono stato il primo a Sassari ad averla, l'ho consigliata a tutti perché è una bellissima antenna, va bene, l'unica cosa che c'è è che c'è due segnali in meno della turbo 2001, però se tu rapporti la lunghezza di un'antenna e dell'altra, preferisci sempre la mini turbo perché almeno puoi passare da tutte le parti, invece con la turbo 2001 tocchi da tutte le parti. Sì, è vero, la mini turbo sembra un'antenna normale di radio, capito, non è questa grande cosa, ma se non ti fa. uno con la giornalina preferito a tutto, tu avevi una e mi sembrava che mi avevi tutto venuto tu, solo non avevi venuto una di antenna, se non sbaglio, una LEM. Confermi o se ho sbagliato? Non me lo ricordo, Gabi, sinceramente non me lo ricordo, la giovinuto di antenna. Ma io infatti a Franco gli stavo facendo la corte, se mi dava quella quella frusta nera, perché la macchina è nera, se io avessi dovuto bucare il tetto della macchina avrei avuto l'antenna dello stesso colore, di modo che non sturi molto, capito? Comunque l'impianto che ho io è fatto bene veramente, è fatto con cavo grosso, me l'ha fatto chi fa impianti per le gare stereo, capito? Per le gare che fanno in coso al quadrato, lì, di stereo, eccetera, eccetera. E me l'ha fatta lui, mi ha messo cavi ben grossi, eccetera. Quindi l'impianto è fatto bene, c'è solo l'antenna, infatti me la voleva mettere, mi ha detto dai, non ti si arrugginisce, no, non è me, non è bucare macchina, no. Non l'ho voluta mettere, c'è peccato perché avessi fatto un lavoro completo e vabbè, già completo quello così. No, non bucare la macchina, amica. Già, non bucare la macchina perché è un peccato, è nuova la macchina tua, cioè. Come io adesso ho preso e vado a bucare la macchina mia. Cioè, no, non lo farei mai, ma neanche a parlare. Qua forse lo metto in furgone, forse. Quando avrò possibilità che ho qualche cosa da spendere, mi prenderò un Colt, un S9 o un 48 Colt, le viti a 400, 350 o 400, le viti. Però se faccio una cosa così, lo metterò con un bel lineare, perché cioè, un Colt con un lineare a 100 watt non mi sembra tanto. Però più là, se ne parlerà più là di questa cosa. È fatto bene non bucarla già, ma chiedi, ma per cosa? Poi ma lascia perdere, ma lascia perdere. Quando devi usare usi la base magnifica. Io lo so cosa facevo, lo so cosa avevo fatto alla macchina. Avevo messo un PL, usciva il PL diciamo dall'avanti, da sotto il cofano, col barilotto quando dovevo usarla avevo lo stoccolcino del cavo. Erano 90 cm che andavano dalla cappotta fino al barilotto e mi agganciavo lì. E quando così non avevo finito in abbassate né niente. Quando uscivo proprio con la base magnifica. Poi avevo preso, ho fatto fare dal carrozziere cosa la cappotta e ho messo la basetta della mini tour. Aspetta, Franco, ripeto. No, io l'ho messa a posto di quella della radio, bucato cappotta. Sì, però non la butti a cappotta apposta. Poi tu, anche le antenne della radio, ci sono quelle che si mettono all'interno, la radio la ricevi lo stesso. Però, Fra, credimi che io i risultati che ho avuto con un'antenna, con la mini turbo, non puoi dire che con la turbo 2001 hai gli stessi risultati perché ne di più. Però, messa a paragone con altre antenne della stessa lunghezza, quella è molto, molto, molto superiore. Quindi, io quando dico un'antenna piccola, la mini turbo è un'antenna azzeccata, e se l'impianto è fatto bene ed è saputa accordare e la accordi in un punto buono, se vai a fare il lavoro in un punto buono l'aperto, poi lasciamo perdere in città e mezzo palazzo che quando uno cammina logicamente le personale un po' salgono, ma se fai un buon compromesso di massa, perché quello che conta nella macchina il 90% dell'impianto radio è la massa. E se non c'è massa, c'è il polo caldo è sempre quello, la massa no. Infatti quella che ho messo io, già fatto, c'è un bel piano di massa sotto, capito? Io stavo utilizzando stasera la vecchia frusta nera che è lunga 1,20 m. Poi c'ho l'altra antenna della frusta nera, quella più corta, che è 60 cm. Tutta caricata da sotto su sopra. Sì, è bella quell'antenna, è bella. Allora io Allora, io nella macchina mia la massa l'ho fatta in questo modo, gli arrivava il PL, gli arrivava diciamo il cavo al, diciamo, all'attacco dell'antenna, dal PL arrivava la massa. Poi dal PL della radio, diciamo del baracchino, che c'era la radio, di lì usciva un'altra calza sempre delle 10:58, però una calza a parte, e la bullonava un bulloncino. Si dicevano due calze, una che andava alla carrozzeria e una che andava alla radio, al capo d'antenna, e agganciava l'antenna sul cortocircuito. Sotto la capota era tutta quanta, non raschiata a cacciavite, era passata a lamellare, capito? Era pulita a lamellare, un cortocircuito, diciamo come un tappo di bottiglia, dove agganciava l'antenna. Quindi più massai e più l'antenna funziona bene, perché dicono, io metto l'antenna in macchina con le massa, quindi non funzionerà mai. E beh, certo, ci confermo. Ma anche la base magnetica non è che faccia tutta questa grande massa, capito? Solo diverso, perché la base magnetica attira, la massa se la prende. Però se hai la macchina, soprattutto se hai per esempio Volkswagen, Opel, tutte macchine diciamo tedesche, italiane, giungo ne hanno poco e niente. Però se hai macchine tedesche, devi pulirle bene, perché hanno uno strato di sono girati a caldo ed è un casino prendere e trovare il piano di massa con le macchine. Io l'ho trovato nella mia. Comunque Gavi, ti devo contraddire, perché io bene uscivo dalla macchina mia. Sì, uscivo bene, avevo la turbo 2001. Sì, ma c'avevo 100 watt, c'avevo il coso, il linearetto 747, e vabbè, il baracchino era modificato però. E ho parlato dalla cantoniera, stavo parlando con Alghero, che per portatore, se tu sai benissimo che Alghero è un po' difficoltoso, e io ci ho parlato sino ad arrivare a Sassari. Sì, ci credo, però già, in macchina, quando tu hai il lineare grosso, qua lo puoi fare qua una cosa del genere, già, a Sassari non c'è nessuno. Però io ero andato con la camionetta, con la radio in macchina, con l'S9, ti ripeto, vuol dire, ero andato in continente, ero andato a Pavia, mi ricordo per cosa, però ero andato a Pavia. Gianni, come sono sceso dalla nave, lo so cosa c'era di radio, di camion, di gente che aveva la radio in macchina. I camion sono assurdi, il camion con il più poco esce a 1200 watt. Il più poco esce perché sono finali a 4, poi utilizzano lineare a 24, capito? Quindi sono, guarda, non 1200, ma il più poco esce a 800 watt. Il più poco esce perché non vengono, non esce. Quindi, io dico 100 watt, lo so da che parlare, con niente. Qua va bene, però se tu vai in continente non ti bastano neanche 500 watt. Vabbè, sì, quello sì, è vero, ma lì sono tutti quanti fissati, esaltati, vabbè, adesso di meno, ma prima mettevano in cuppia due lineari da 1200, cazzo, in cuppia, da 600 watt, in cuppia, e aumentavano i watt. E c'era cosa? Manicomio, che c'aveva 2550 accoppiati, con 1100 usciva. Sì, però bisogna vedere, perché è una cosa che è già stata provata quella. Uscivo in radio quando ha detto noi, ma tu metti in tiro, vai all'altro, vai ai lineari, poi esci, quindi sono ritornato in radiofrequenza. Lineare lo sai come può uscire forte, allora l'unica cosa forte che si può fare è prendere e mettere due antenne, allora si esce, allora lo può fare, però fino a un certo punto, perché due lineari assieme con un'antenna non li può accoppiare. Sì. Due antenne in serie devi mettere, capito? Mi può dare antenne mie. Però non puoi uscire con un lineare, per esempio fare una radio, due lineari e un'antenna. non funziona, non funziona, non va, ma è, non lo dico io, è una cosa che non va, assolutamente non va. E... perché avevo tre cose a funzionare, funziona come, come un po' come il flusso dell'acqua, mi segui? E quindi è una cosa impossibile. No, capi, sbagli. C'era già dei chiaramonti che c'aveva l'antenna in Maria un burcione, la carica, un burcione, e c'aveva 1200 watt in carica. Sì, ma non con due lineari, è impossibile. Guarda, mi gioco quello che vuoi adesso. Se noi facciamo tutti i collegamenti, noi bruciamo un lineare o l'altro lo bruciamo. Ma subito, eh. Era un lavoro fatto bene, l'ha fatto gente che lo sapeva fare, gli ha messo le batterie a parte, tutto quanto è predisposto, capito? E c'aveva questa antenna americana, ti sto dicendo, un boccione ce l'ha presente, la carica era grossa quanto un boccione. Sì, sì, la so che antenna è, la so che antenna è già, però è elettronicamente impossibile farlo, mi segui? Quello che sto dicendo io, che non è che io non credo, è elettronicamente impossibile fare una cosa del genere. Puoi farlo se metti due antenne lo puoi fare, però mettendo due antenne devi sapere che potresti avere anche due ritornire le trovate. Se avete due lineari da buttare via o una radio da bruciare, provate e venite da prima alla radio. Lo so già, lo so, lo so, lo so. Lo so. Non mi ricordo come si chiamava quell'antenna, se no te l'avrei fatto vedere, però era grossissima la carica, io l'ho visto una volta, mi sono assustato, una carica. Sì, quell'antenna americana, la 5000 mi sembra che sia, 5 kW tiene quell'antenna di potenza, quindi 5 kW. Oppure puoi fare anche una cosa, si può fare, lo sai forse come aveva fatto, una radio uscita, due lineari e due antenne. Allora così si può fare. Una radio, un'uscita, metti in T, metti la radio a 10 watt, intanto tu li divide, poi dipende dove li divide, comunque il segnale è quello, 10 watt, due lineari e due antenne. Mi segui? Non lo so come ha fatto l'impianto per accoppiarti i due lineari. 1200 watt li dava. Sì, 24 volt. Va durante. Lo prendi, Franco? Due lineari a 24, infatti. Quell'antenna che stai dicendo tu già, è quell'antenna americana che c'aveva il piano di marcia e radialini con la bottiglietta trasparente. Ehi, ehi. 5000 watt quell'antenna ti è. Giovanni l'originale era number one in macchina, sembra forte usciva. Ma se più sentito, mai ce l'ha sempre in camion. Se non ero sta facendo adesso, quel tumore. No, stava lavorando in via Mendola quando l'ho visto io, capito? Cioè, stava lavorando demolito pazzo, in via Mendola stava lavorando. E c'era bisogno, legata, che c'è una bomba da balissi. E intanto, quando metti i lineari grossi, per forza esci forte. Non è come noi che siamo cipitù. No, noi non è che siamo cipitù. Noi non vogliamo spendere soldi in energia elettrica, che è diverso. Tanto... E tu, a me per esempio, io tu lo sai già, io sono un fattito di lineare, a me piace le lineare unico rossi, a valvole, io esco di testa quando li vedo, infatti poi dopo io uno lo prendo di lineare belli grossi a valvole. Però Gianni, quello va bene, come posso essere io che l'attacco, te lo dico, a un gruppo elettronico, per fare quello uscito un giorno con lineare, metti 10 euro di gasolio. E sai che hai consumato 10 euro di gasolio, è il discorso che ho fatto l'altro giorno. Però se io devo prendere per attaccare quel lineare e consumare 100 euro di corrente, allora il gioco non vale più la candela. Quindi magari usavano sia i lineari grossi che ce li hanno, i russi che non pagano la corrente, i francesi che gli regaliamo la corrente noi, e loro prendono e approfittano. Allora tu una cosa del genere qua, che per non ci può 100 euro di luce. Già mi è bastato quello che avevo fatto questo mese. E allora la devo lineare, tanto è propagato una rete con 10 watt. Fai il giro del mondo e ti chiedi anche qua 5. Quanto ti è arrivata già? 237. Ehi, sei stato fortunato allora. 280. Sta troppo 4,60. Certo, 280 euro di luzzi. a te guarda. Beh, a me vale la candela da cagare per il cattore, ma non vai. La prima volta, allora, la prima volta 4.40, la seconda volta 4.60. Ah, penso che sono parlando di abitio, che saluti, no, non quadra, perché non ho mai pagato tanto così di luce. Sono fatti i veci, so già, cosa cazzo, io lineare non ne attacco. E non hai pagato i contanti? Come? Se hai pagato i contanti, 400 lì. Allora, hai pagato pure quasi 1000 i contanti. Se ci ha finito di novità, risacca della luce. Purtroppo, il sacrificio e la paghi. Ma te la attaccano già, te la abbassano, non è che la tagliano. Vabbè, non ti basta per nulla, però manco il televisore dice a prendere. No, per me la stanno mandando così, anche a quella di fronte gli è arrivata la stessa cifra, uguale a me, uguale uguale. Loro sono in quattro, io sono Garasura, in due, dai, in due. Oh, strano, stai pagando nome di luce tu. C'è qualcosa che non va lì già. Allora, fra io di luce ho sempre pagato 70 euro, 80 euro. Proprio andando male ho pagato 170 euro da quando c'erano gli aumenti. Adesso questa mese mi ha fatto venire un infarto. Da me non vedo 180 euro. Vabbè, io... è questo mese che è arrivata così. Perché di solito pagavo 70, 60. La scaldabagno è sempre attaccato da me, perché io mi faccio la luce e lo scaldabagno rimane sempre attaccato. Non lo stacco mai lo scaldabagno, sempre fisso. Neanche io lo stacco lo scaldabagno, io lo faccio sempre attaccato, io lo faccio sempre attaccato lo scaldabagno. È sbagliato staccarlo lo scaldabagno. Io invece lo attacco di notte, lo stacco la mattina alle 8 e c'è un'acqua per 2 giorni calda bollente, perché mi hai detto dimmi che dura 2 giorni l'acqua calda. Ma se tu lo lasci sempre attaccato, Gianni, risparmi un po' di corrente. Ma ogni tanto come si raffredda l'acqua poi si riattacca, è normale che consumi di più. Secondo me la logica è quella, se si attacca e si riattacca consumi di più. No Gianni, scusa però. No Gianni, scusa Franco se ti interrompo. Aspetta, un conto è scaldare 60 litri d'acqua, un conto è scaldarne 20 litri, perché quando tu sei sempre attaccato, lo scaldabagno non è mai scarico, non è mai a 0 a 0, arriva, c'hai sempre quei 40 gradi, 50 gradi d'acqua dentro. Quindi lui ha già 50 gradi d'acqua, lui ha già 50 gradi d'acqua, attacca la resistenza, quando la fa arrivare a 90 gradi ci mette di meno, perché l'acqua è già calda, carica, diciamo che se carica un quarto d'ora, 20 minuti di energia e c'hai l'acqua a 90 gradi. In quel modo quando tu lo scarichi tutto lo scaldabagno, deve riscaldare 80, 90 litri, 60 litri di acqua fredda. Fatti il conto quanto rimane più attaccato lo scaldabagno. Allora io ho lo scaldabagno elettronico e scalda subito, è diverso dagli altri, l'ho pagato un po' di più, però l'acqua la scalda quella di Boso lì, in mezz'ora c'è l'acqua calda. Allora, scalda subito, è una cosa diretta, non ci mette molto a scaldare, capito? È come la carica del telefono, no? C'è quello che ci mette di più a caricare, quello che c'è la carica veloce. Questo qui è dell'Ariston, non potevo metterne altro perché le staffe praticamente in alto, quelli con le staffe al centro non li posso mettere perché tocca il soffitto, capito? Perché a me c'è un punto che c'è praticamente, non so se mi spiego, il soffitto che tocca, se tu lo metti, metti le altre staffe non ci sta, ho dovuto comprare per forza quello lì, io solo Ariston posso mettere. Sì, ti ho capito. Però tu mi hai capito il discorso che ti ho fatto, da riscaldare 80 litri d'acqua fredda a 80 litri d'acqua tiepida. Mi segui il discorso che ti ho fatto? Lo prendi Franco? Sì, ma attacca più volte, capito? No, attacca e basta, è sempre attaccato, tu mi trovi sempre l'acqua tiepida. Lo prendi Franco? E questa è la, in definitiva è così già, perché se io adesso stacco lo scaldabagno, domani mattina lo scaldabagno c'ho 30-40 gradi, e se lo scaldabagno di solito il mio è tarato a 70 gradi, l'acqua che c'è all'interno si raffredda e quindi quando attacco riconsuma più energia, perché deve arrivare alla temperatura di 80 gradi. Sì, stai parlando del tuo scaldabagno, ma il mio non è così. Il mio l'acqua bollente la tiene 2 giorni, il terzo giorno rimane un po' più tiepida, non è calda calda, ma è abbastanza calda per farti anche la doccia. Però per 2 giorni la tiene bollente proprio, capito? La tiene bene. È fatto in modo che consumi di meno. Ma quindi c'è uno scaldabagno con la caldaia termica tu? Sì, è di quelli elettronici. È di quelli elettronici. L'ho pagato 230 euro quello scaldabagno. 80 litri? Sì, 80 litri. Ma il discorso è sempre quello, già. C'è sempre il consumo, perché tu lo stacchi. E l'acqua scende di temperatura, non è che rimane sempre a 80 gradi, capito che ti voglio dire? Quindi quando tu lo riattacchi, quello deve riaccumulare di nuovo tensione a riscaldare e a portare lo scaldabagno a 80 gradi. No, fra, vabbè, se non lo vedi non ci credi. Tu ci dovessi stare a casa un giorno, io te lo attacco la notte, poi lo stacco la mattina, il giorno dopo tu vieni ed è ancora calda l'acqua. È bollente, capito? C'è qualche metodo che non te la fa scendere di temperatura. Questo è. Perché con lo scaldabagno che c'è tu vuol dire che c'è la caldaia termica che ti tiene l'acqua a quella temperatura lì. Quello che ho io è diverso. È un Aristo 80 litri. Io perché non lo stacco? Perché se io lo stacco, poi lui se ne scende di temperatura. E riconsuma di nuovo energia elettrica, fino a portarsi a 80 gradi. Fino a quando il terremoto ha un raggio degli 80 non stacca. Io ne ho avuto uno che si chiamava come me, Giancaldo. Io va giù l'Ariston, c'ho l'Ariston, e praticamente ce l'ho 2 anni, non ho avuto mai problemi, fino adesso. Ok, dai, riprendi Gabri. Come è moderna. Giancaldo dell'Ariston, fra. Eglia, andava bene. Gabri, non riprendi? Sì. Io lo stesso, io l'ho sempre lasciato il caldo, dico basta lì. Tu e Giancaldo, Gian. Li ho lasciati sempre attaccati gli scaldabagni. Ed è vero, la resistenza attacca quando lo scaldabagno è a 50 gradi di temperatura, non quando è a 30. Anche io ho già un Ariston che prende e scalda. Per esempio scalda subito, io non l'ho provato perché è sempre attaccato, però è uno scaldabagno nuovo, buono, ma è costa 240 euro ed è uno scaldabagno che va bene, però non anche i vecchi la tengono sempre a temperatura, non che non sia proprio del 1900, però quello per esempio che c'è la mia suocera è lo stesso, uno scaldabagno buono e loro lo stesso lo staccano e per caricare ci mette un'ora e mezza a pagare. Io mi trovo bene con questo qua, lo attacco la sera alle 8 e ho sempre pagato poco mi facendo così, solo che adesso che è aumentato ho cominciato a pagare 170 e poi di colpo 238. Lo sai perché già? Perché sicuramente avete una tariffa variabile di qua sulla base. Ho detto che qua voi avete una tariffa variabile. Io ho una fissa e non mi ricordo di quanto sia. Sì, è arrivata anche a me, però grazie a Dio non così. Però aspetta, io qua a volte alimento il posto, a volte alimento il posto, io sono a Banò al posto. Ho tutti i fari della campagna, tutti i fari, perché ho tutto illuminato. Diciamo in garage ho compressore, mole, mi faccio lavoretti e faccio quello. Io la uso la corrente, io la uso. Ed è arrivato 120, 130. Capito? quindi dipende anche da che fornitore sei, perché se tu sei un fornitore che deve comprare l'energia da Enel, vai tranquillo che non risparmi. Tutte queste cose qua, per esempio la mia madre ha arrivato delle bollette, sono arrivate delle bollette che sono presunti costi, non un costo definitivo, capito? Cioè 170, 185, 130, ma è una roba forfettaria, non è una lettura definitiva, mi segui? Ehi, sono negli obiettivi, come ti capiteggia di vedere in vaga? Non è possibile, perché io quella corrente lì non l'ho consumata, anche perché ci sto molto attento. Io ho le fasce orarie, non ce l'ho variabile né niente, ho le fasce orarie. Dopo le 8 posso attaccare lavatrice, usare il televisore, consumo meno, capito? Dopo le 8. E poi i giorni festivi consumo meno. Io tutte queste cose le seguo, capito? Non è che sono alla lettera, le seguo. Cioè dopo le 8 io attacco la lavatrice e naturalmente se poi c'è qualche urgenza, qualche cosa, un lavaggio lo faccio, non è che, però intanto seguo molto queste fasce orarie, capito? E quindi dovrebbero, rispettando queste fasce orarie, dovrei pagare meno, invece così cavolo, ho pagato una barca di soldi, comunque frate ti pagavi la vita e quindi tu ne hai pagato di meno di luce. Vabbè, io la metà sì, io ho fatto il bonus energia, pago di meno. Quindi tu anche se consumi un me non paghi mai molto, eh? Vabbè, lo so. Io ho consumato così perché c'era quel vizio di staccare lo scaldabagno, non io. Lucia che lo staccava, capito? Io c'ho sbagliato. Si stacca, adesso rimane sempre attaccato. Cioè se io mi devo fare la doccia, va bene, lo scaldabagno attaccato, non ho capito. A me non mi dura due giorni l'acqua calda nel mio, ho capito il problema dove sta. È tutto lì. Io l'acqua per farmi la doccia ce l'ho sempre, perché l'attacco alle 8 di sera e poi alle 8 di mattina lo stacco. Per due giorni posso farmi la doccia tranquillamente, dopo lo stacco l'altro giorno alle 8 e il secondo giorno l'attacco alle 8 e poi lo stacco la mattina di nuovo. Faccio così sempre. Va bene, non c'è problema, tutto lì. Però se attacchi e stacchi, attacchi e stacchi, lui, per carità. Cioè stiamo pagando la corrente un bel cara, adesso dice che abbassa, non se ne capisce più niente, in Italia siamo, tutto magna magna. Secondo me ci hanno dato questo botto perché poi deve abbassare, quindi per rifarsi del mese che abbassa ci hanno fatto questo botto qua. Bah, però stanno spendendo un bel di soldi per questa guerra, capito? Visto che stanno mandando gli armi, l'Italia, missili, roba del genere. Tutti di là sono soldi per questa guerra. E mandino armi, così si attirano ancora i russi e alla fine la bomba atomica che ha ammazzato tutti i gatti. Guardi. Dimmi, scusa. Ciao ricevitore, sì, vero? E io. Allora, pensa a te bene. Adesso non c'è da continuare, sono bucato, Gavi. Mandami di là. Vedi. Ti do la prima frequenza, ti mando una frequenza. E tu ti mando anche un video. E devi guardare adesso ricevi qualcosa. Ok? E io? Bene, dai, scusa Franco, riprendi. Scrivimi se è un SMB o non è SMB. Dai che sono al telefono un attimo, capito. AM già. Ah, in AM? In AM, sì. Si chiama Bowser. 4625. 4625. Si dice che sia una frequenza, non sono intermittente. Sono intermittente che dicono che sia un allarme anti atomico, là. Una volta che spente questa frequenza qua funziona sempre finché non c'è cosa atomica. Quando c'è la guerra atomica, come riceve segnali atomici, lui prende e smette di suonare, allora parte direttamente la controdifensiva. È vero. 4625, già me lo ricordo, in AM. Sì, ma non sono che fa wow, wow, wow, wow. Capito? Ed è vero questa cosa. È vero. E ce ne sono tante altre, te le mando su Messenger. Te le mando su Messenger, sia in AM, sia in CV, in CV doppia, ce ne tanti, io me le studio queste cose qua, mi piace, infatti io ce l'ho sempre questa qua, capito? Adesso è spenta, però io per almeno 40 minuti, anche prima di collocarmi, me la studio. Poi ci sono, ce ne sono tante che in pratica sono delle number species. Praticamente sono delle avvisaglie, dai, delle avvisaglie contro, vabbè, quando smettono vuol dire che è partita la bomba atomica. Sì, sì, è roba russa che esiste dal 1975 attiva questa radio. Sono radio, le chiamano number station oppure radio fantasma, dicono che sono che roba dei seguiti segreti. Sì, sì, sì, ho capito. E domani magari curioso vedere. Sono tu mi dici cosa ascolti, cosa te ne fai della figlia dell'ascolto queste cose qua. A me quello di capire radio naturi, non so quanto me ne frega, niente. Ma non niente, non di più di niente me ne frega. Io ascolto queste cose qua, le onde medie, onde corte, le radio, dei segnali strani, tutti, se tu ti condivido, infatti quando io ti ho detto che le radio sono diverse, tu ti condivido con un HF, senti cose assurde, ma non discorsi, queste cose qua, capito? Ti studi la frequenza, tutti i tipi di segnali di frequenza, se li senti tutti i giorni, ti fai conto di quanti secondi le mettono, ogni quanto, da dove potrebbe arrivare, se è una cosa che continua oppure no, tante cose ci sono. Anche perché un po' mi sta stufando ascoltare, dai. Non mi ricordavo più, pensavo ancora che avessi la passione di queste cose ascoltare, invece mancano le cose che ascoltavo io, capito? Mancano tutte le cose che io prima ascoltavo e non si prendono più. Gianni, quelli lì non si sentono più veramente, però per ascoltare certe cose deve avere un ricevitore, quello che ho io ascoltato per tutti. Diciamo la marina militare, che ascolti, ci sono anche cose nella carota, per esempio c'è il contesto delle prefetture, che è bello, ci sono i contesti delle prefetture, in HF, ci sono queste cose che ti sto dicendo io, che ti devi assillare, capire, ti fai le tue prove, mi segui. Poi per esempio il ricevitore che ho io, che fa 25 MHz fino a 1200 GHz, 1200 fino a 1200, perché ha il GHz anche di superamento. Qua ascolti, diciamo, le capitanerie, la banda aerea, tutti gli aerei, anche se non capisci niente di quello che dico, però ci sono delle frequenze dove parlano in italiano, e poi ascolti, vabbè, c'è cioè, radioamatori che a me non mi interessano, poi hai tante cose, i satelliti su 725.000 mi sembra che siano. Infatti mi sto facendo un'antenna, una parabola per ricevere meglio, c'è un progetto in internet che fare questa antenna. Mi segui? Capo, sì, ti ho seguito. Sì, sono cose interessanti, dai. A chi piacciono sono interessanti, ma anche io ne ho sentito di questi segnali strani girando, capito? E fissi anche. Proprio che penetranti, fischi anche penetranti, no, se ne, diciamo qualche volta ascolto il radioamatori, però non ho più la voglia di ascoltarli come prima ero proprio partito, stavo ore e ore a ascoltare. Adesso no, adesso mi piace più parlare qua in radio e ascoltare di meno, perché poi ogni volta tocca staccare, fare, attaccare lì su, ma mi sono rotto le palle. Già, si può prendere, metterti un commutatore all'antenna e non stai a attaccare e attaccare. Però, ti ripeto, con quello che ti chiedi, con queste cose che ti dice Luglio, prenditi e un po' ti assidi, dai. Io più che altro a me piace questa cosa delle, della costruzione di antenne e queste cose qua, quindi io magari il sabato che sono libero, la domenica mi dedico a queste cose qui. E poi mi faccio l'ascolto nella HF, ti ripeto, ma non radiomateriale, perché bande radiomateriale, perché come li sento io giro, perché non me ne frega proprio niente, perché sono, non mi interessa. Vado a cose roba un pochino più seria, oppure posso ascoltare il rilevatore che parla di elettronica, ma il rilevatore che ne sa, capito? Cioè, ci sono dei conto, dei, ci sono dei questori che parlano di elettronica, allora quindi li potete anche ascoltare, li ascolti, no? Perché c'è gente anziana, c'è gente che ha vissuto, c'è gente che costruisce antenne, allora uno prende e ascolta. E... però quello che mi interessa a me sono queste persone qua che dai, c'è un mondo tutto da scoprire e queste persone no, a me queste persone neanche le sentono. Sì. Sì, ma io mi sto immaginando tu con questo suono penetrante per 40 minuti, come cavolo fai? No, io non è che ho questo suono penetrante, io lo tengo basso, non è che sia. Lo metto in picchia, c'ho un analizzatore di spettro, ho un analizzatore di spettro esterno, lo prendo e lo faccio il cavetto, uno va lo ricordo, uno va analizzatore di spettro e vedo sempre le onde che manda la radio e le onde che diciamo che ricevo io, di sì, se metto qualcosa di più differente che fa lui. Io ci ho analizzato il rispetto dell'audio, non è un giocattolo, è una scheda audio con un analizzatore con schermo 19 pollici, non è un giocattolo, mi interessa questa cosa qua. Ho visto che lo stai vendendo, ho ricevuto. Sì, l'ho messo in vendita perché volevo prendere in base quadribanda. Un ricevitore base quadribanda, capito? Cioè che fa tutto, attacchi due antenne, attacchi due antenne e ti fa tutto. E... questo qua è bello, questo qua è bello, però fa solo 25, fa solo 25 delle due, allora là fa tutto, cioè ricevi anche quello che dicono le mattonelle. Quello ricevitore che tutti vorrebbero capire, il ricevitore è bello, quello che stai prendendo è bellissimo. Sì, questo qua è bello, questo qua è... di chi è Claudio? A Carriero, a vedere cosa è questo ricevitore, questo qua è il re dei ricevitori. Tu pensa, hanno fatto, di questa serie c'è l'ICR 7000 che fa la 25 a 1200 e poi c'è l'ICR 71 che fa la 0 a 30, era tutta la stessa linea, capito, di ricevitore, però io per il resto la HF lui quello non ne faccio niente. La R2000 c'è pure. Scusa già? Ah, oh, R2000. Sì. Sì, c'è anche quello. Ma io con questo qua mi trovo bene. Attenzione, sembra un hi-fi, Già, questo qua, tu vabbè, conosci 140, conosci la radio, quindi sai di cosa sto parlando. Questo qua non senti tu di bordelli strani quando è in ricezione. Questo qua è un dito, questo qua è una pietra messa lì, no? Questa è una pietra messa lì che non toglie, sembra spento, e quando va in ricezione riceve, cioè è un hi-fi, è come che tu hai un altoparlante normale di hi-fi, è bellissimo da sentire, è bellissimo, ha un bel audio, bellissimo da sentire, ha un ottimo attenuatore, ha tutti i filtri, caspita, è spaziale, c'è anche un altro quadrato. Sì, lo so. Io l'avevo preso perché già, ho detto, lo spendo una volta e me lo tengo. Però io per esempio lo vendo solo per prendere quello che sto dicendo, perché altrimenti rimane qua a casa. e non lo regalo, perché se dico il prezzo lo sto vendendo insieme all'antenna, lo sto vendendo insieme all'antenna, quindi lo do completo. Non è che ti vendo la radio e ti devi comprare la discona. Poi se qualcuno che conosco mi dice la vita come funziona, io prendo ti ascolto, te lo puoi trovare, tu mi fai un paio di giorni, te lo provi, e sono quelli che vogliono prima i soldi, no? E non io voglio prima i soldi, prima i soldi tutto la radio. Come sono radio che sono già un po' datate, no? Sono già radio che hanno un po' di, sono vissute, sono usate, che quello che vuoi. Quindi non potendo dare garanzia e non volendo avere problemi con nessuno. Io se ti devo vendere una cosa ti dico ascolta, da voi, io la mi sono tutta la prima una settimana, praticamente non la prendi a colpo di martello, non fare tutti i raggi, te la prendi, vedi se funziona, se ti piace, fai. Però a uno, a una persona che è veramente intenzionata a comprarlo, non è me ne vengono 10 persone in un mese e mi dicono ma te lo voglio comprare te lo... e non ti dico te lo uso. Se dice se vieni tu, se viene Claudio, se viene quell'altro che conosco, lo voglio provare prima di comprare, provalo, va bene, io garantiamo un tenelo, è sempre un apparato, è sempre usato, quindi diciamo che le persone che conosci fanno una cosa del genere più. Ma le riconosci bene, perché secondo a chi lo dai magari ti rifaccia, dice non funziona questo, capito? Magari ci ha messo male. Sì, ma infatti io non lo uso, cioè ho detto già, se può servire per esempio una persona come può essere Claudio, come può essere Tino Muscolo, come può essere tu, come può essere, cioè io glielo do, non ho problemi, che se lo uno che è interessato all'acquisto. Certo non lo do a cane tutti, no, cioè che piglia le cartine, no, così viene a casa, te lo ascolti, funziona, si può fare via. Però se sono conoscenti che, cioè, che strati, che non che li vuoi dare, avere sempre un buon rapporto e non vuoi avere problemi, provatelo, sì, quello il discorso che faccio io. Sì. Ok, avanti Franco, Drumino, di sì. No, c'è una cosa al telefono con Lucia, già. Ah? Questo è piccionciato. Già, doveva mangiare il cane un attimo, entro subito. Vai, io glielo ho già dato, se la mangia Drumino e l'altro la lasciata. Ok, dai, ho chiuso adesso. Cappa, fra. Se ti interessa a me, sta venendo un ricevitore. Cosa? Capito? Già, non compro più niente, basta così. E vendere, vieni. Vendo più niente, non occuperei più nulla. Basta, mi è passato questo mese le spese che ho avuto. Io ne ho ancora, devo pagarmi anche l'assicurazione questo mese. Questo mese l'assicurazione, 280, poi un altro 80 di cosa? Revisione di macchina. Da voi cosa giubilia? Ah, la luce, l'acqua, che è stato in basso, altro. Poi, cioè non bastano più questi soldi, ci stanno portando a diventare poveri, non bastano più, troppe spese. Sì che ci sono delle spese regolari, vabbè, lo sai che devi fare, ma cazzo, quando di colpo ti mandano un moto di roba. Ma io ho avuto anche spese di condominio, che questa qui ci ha messo l'avvocato perché dice che abbiamo fatto pagare più di acqua, e ci ha messo l'avvocato, non ne vuole sapere di arrivare a un punto d'accordo, ci ha messo l'avvocato e mi sono pagato 130 euro di avvocato pure perché devo dare una parte io, una parte gli altri condomini, no? Per carità. E gente sola, gente che non sa cosa fare, rompe i coglioni agli altri, ma... Ui. Che prendo più nulla, no? Un casino, eh. Aveva ragione mia madre, diceva quando sei ragazzo è tutto disceso, poi comincia la salita. Beh sì, cominciano tutte le spese, tutto. Praticamente stavo dicendo, che antenna stai utilizzando adesso? Io, mi fa l'altro problema del computer risolto, la batteria tampone. Ho dovuto tutto aprire, io ho pulito anche la ventola. Cazzo. Un cantieri era il computer. Era un mediano fermo, Luca. L'ho portato giù da Sermione col PC. Tutto lì. Stavo dicendo già, nella macchina già stai utilizzando. S9, 980. No, di antenna. Turbo 2001. Quella lunga. E allora? Cazzo. come fai con quell'antenna? Non è troppo alto. Devi scartare i rami degli alberi, devi stare attento, se no ti la butta giù. Casino, no, io ho la frusta nera, ne ho tre di frusta nera. Ma la frusta nera che ho io, piccolina ma spara un bel. Quella è quella di Savinio. Quella di Savinio pompa forte l'antenna, è piccolina e pompa. Che antenna è? Ah, c'è una sigla, non c'è la marca, ma c'è una sigla con un numero 157, mi pare. C'è la carica trasparente. Si vede tutta la bugiventa. Ma quella sta usando in macchina. Esatto. È una vecchia antenna, non so che antenna sia, adesso non ricordo. La vendono tuttora, c'era, l'ha cercata Franco, l'ha trovata su internet. E cosa costa quella lì? Una cazzata, 35 euro mi pare. 35 euro. Sì, costa poco il redum. Trasparente, trasparente. Ma della Midland? Ma chi sa, vedo già. Sì, è bellina l'antenna, sì. E pompa mi, cazzo, lo portatile esce anche. Non lo so di che marca è. Ho fatto la foto, se, te la, se riesco te la mando, fra, cioè. Te la giro su WhatsApp, ce l'hai WhatsApp vicino. No, marca non è a... C'ha un numero di serie, l'ho vista io da vicino, si è fermato l'altro giorno. E beh, quella tua non va bene l'antenna. Quale? La 2001. Quella nuova è ciò che non ho mai usato. Non so se l'hai usata, ma è dove ce l'hai in macchina. Allora, adesso dico come la storia. Un giorno sono andato a fare... Mi l'ho mandata, fra. Nei cosi, nei... Fra, mi l'ho mandata. Ho tolto l'antenna perché dovevo attaccare, dovevo metterci la spesa dentro e poi l'avrei messa dentro, invece me ne sono dimenticato, me ne sono andato, ho lasciato l'antenna appoggiata alla colonna e sono andato a prendere l'antenna, gli ho preso l'antenna, poi sono tornato subito dietro, ho chiesto a quello del supermercato e dice sì, un'antenna l'abbiamo vista però non l'abbiamo toccata, guarda se c'è ancora, invece se l'avevano presa e l'ha trovata il cugino di San Vito buttata nella rottatura che c'è vicino a casa, però io me l'avevo già ricomprata nuova e quando sono ritornato a casa parlando con Cristian mi ha detto guarda che ha trovato il cugino di Salvini una uguale, l'ho chiamata Salvini e ho detto sì già e com'è, ho detto guarda che il pilino non ce l'ha più, gli ho messo il termorestringente nero per non vedersi che manca e ha appurato quello e me l'ha portato a casa, quindi ne ho due, quella nuova non l'ho mai usata. E me una non me la vendi a me. È nuova, non è che io te la posso dare 20 euro, capito? È nuova, costa 69 euro nuova, te la posso dare 50. E cosa siamo vendendo? Ascolta a me, è quella che c'hai, l'altra. L'altra è in macchina. Ah, ce l'hai in macchina, quindi ce l'hai doppia. Eia, quella nuova non l'ho mai utilizzata, mi senti? Mai utilizzata. Gli ho tolto il nylon per metterla e poi ho ricevuto questa telefonata e allora ci avevo già buttato il nylon, non c'è il nylon, però l'antenna è nuova, è perfetta, mai usata, il cavo ancora legato, tutto c'è, non è toccato, è stata toccata. E come prezzo è buono, dai. Non so cosa costa, ma mi pare che così sugli 80 euro con l'antenna, una cosa del genere. Vai capi. Eia. Se vi interessa la troverete anche un'antenna veicolare, un'antenna veicolare, e sto vendendo anche una GTE, una mezz'onda per la 27 senza radiale. Chi lo vuole tutti e due le do una cinquantina di euro. L'antenna veicolare è completa di cavo, completa di 58, di 4 metri ed è un assidio turco. Quanto è alta? Ma dovrebbe essere un'ottantina di centimetri. Ma a me non interessa, però magari se mi metti dove ho messo quell'apparecchio là, mi vedi. Ma guarda, sinceramente a me quello, guarda, tutto quello è di metterle in vendita, non è che mi interessa più di tanto, perché se le vuole qualcuno, dai, così le do anche a fare scambio con qualcosa, capito? Non è che mi interessa monetizzare, mi interessa magari di uno, se qualcuno che ha qualcosa che può servire, a parità di valore gliele do. antenne nuove, sono antenne nuove, non sono antenne spezzate, tagliate, fatte, sono antenne nuove. E il furgone non te la vedi? Già, il furgone se mi metto, se mi metto la 3001 o mi metto la CEO, il furgone se mi faccio l'impianto solido me lo faccio attaccato alla cassa di dietro, gli faccio un bel piano di massa in alluminio, mettiamo di massa in alluminio di almeno 2 metri lungo per 1,50 e glielo faccio in alluminio, la metto sopra, capito? L'antenna non ha bisogno solo della massa, ma anche di un piano riflettente, come la cappotta della macchina, un piano riflettente, capito? Se ha il piano riflettente spara forte. Sì, già. Aspetta, io ho una capsula, una cellula racing car 4,30 per 2,30 alta per 2 metri, là. Mi sono riflettente di quello qui. Solo che è in resina, capito? In resina, è della resina. E sopra volevo mettere questa 3001, la 3001 turbostar, anche se rimane alta non mi interessa, io sarei a picchia. Mi sono iniziata la cabina, quindi. Però se lo faccio con quello, capito? Gli metto le RG 213 o l'H100, se voglio fare bene anche un problema, però devo... Ho anche il cavo d'alimentazione, quello che usavo in macchina non l'ho mai venduto, cioè non l'ho mai dato a nessuno, un cavo da 12 dell'Audito, è un cavo siliconico, è assurdo, è fungibile, tutto, la casa per riuscire il cavo. È come il mio, è quello morbido, quello grosso arancione morbido. Esatto, cavo da 12. E ho anche l'alluminio per fare il piano di massa, capito? Sì, per quello non c'è problema. No, la Silo Turbo mi sembra che sia 400 watt in PET. Ci sono delle recensioni buone su questa antenna. Noi me l'avevamo data quando avevo comprato il veicolare, Yahoo, l'FT100, il BIT, il quadribanda, noi avevamo dato sia quella lì e un'antenna VHF. Vabbè, già lo troverai il sistema, dai, per mettertelo in furgone. Perché tu fai strada anche lunga, quindi non fai strada con alberi, cose, tranne quando rientri in campagna, che non so come sia, se ci sono rami sporgiti o roba del genere, però di solito tu fai strade lunghe, quindi va bene anche un'antenna grande. No, io in campagna non ne ho alberi nella strada, dove vado, dove proteggio il furgone è tutto aperto, neanche il cancello ha niente di cose sopra, non è tutto libero. Sì, infatti volevo fare una cosa del genere, fatto sulla cellula, però ci vuole tempo e soldi, adesso ho altre priorità, ho riparato, ti ripeto, lo sai, lo sta parecchio, ho preso un botto per riparato, quindi al momento mi devo fermare così per più altre cose. Però se trovo qualcuno che vuole fare scambio o qualcosa, delle posso anche dare, una veicolare e una antenna, diciamo, da base fissa. Fra! Già! No, a me non mi servono, ho tre fruste nere, poi c'ho la BCL 800 che è sulla base magnetica, poi c'ho un'altra fruste nera di 15, ne ho un casino antenne veicolari, no. Infatti l'800 la voglio mettere sul camper, che è alta ed è lunga e va benissimo. E la pilota col B300, con un amplificatore che c'ho qua. Non c'è di sicuro di vura. No, nel camper già lo metto, non mi interessa. Gli metto quel 300, tanto c'è il pannello solare, quindi lo posso alimentare tranquillamente. C'ho l'inverter anche da 12 a 220, non c'ho problemi. Ti sei attrezzato? E ci ho messo la televisione, gli ho fatto tutto l'impianto a LED dentro, tutto sistemato, di lusso, è uscito bello dentro. Sì. Ma non lo fate bene. Adesso per quest'anno lo teniamo, adesso vediamo un po' a metà di quest'anno che forse lo vuole cambiare e vuole prenderlo in uno più piccolo, capito? Perché questo è troppo grande, 6 metri, è enorme. che campo l'hai, no? È un coso, no, un Laika. E boom, sono qui. E noi ce lo volevamo prendere un camperino, però capita. C'è un camper tranquillo, così vai 20-25 mila euro. Devi subito. Ne ha preso uno Giovanni, bello. Non so quanto l'ha pagato, me l'ha detto per stare sui 12 mila. Vieni lì, no, è tenuto bene, un Ducato Turbo Diesel 2005, bellino. È il modello giusto del Ducato, diciamo la seconda serie, come il talento. Cappa di positivo, sì, sì, uguale a quello. Però è tenuto abbastanza bene, l'ho visto, è bello dentro.